sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Sono convocato anch'io e vengo in ritiro per forza. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Higuaín controlla, tutto con il destro e Carrizo è battuto. Letteralmente in ginocchio Roberto Mancini, in ginocchio davanti alla sua panchina dopo il gol incassato. Tornato in piedi, si è rivolto alla sua difesa, era un uomo solo, uno solo, e avete preso il gol. Perdere così, regalando un gol così, diciamo che siamo dei polli, ecco, dei pollastri, bravi perché stanno giocando bene, hanno giocato bene, ma siamo dei polli in questo perché siamo troppo molli a volte su questa cosa qua. Concedere un gol così è veramente assurdo, no? Cioè, non si può subire un gol da fare laterale a tre quarti campo, questo è... Però il terzo che fa il Napoli questo... Sì, ma il Napoli sappiamo, ma Higuaín è furbo, però tu giochi una partita così, perdi 20 secondi alla fine, è una catastrofe. Allora, io oggi voglio fare una convocazione speciale. Voglio invitare tutti gli allenatori e i giocatori presenti che ci stanno ascoltando ad ogni livello, che ha giocato dai Pulcini alla terza categoria fino alla Serie A, a chiamarci 800 24 00 24 per raccontarci, al livello a cui si è giocato, un gol fatto o subito su rimessa laterale. Giorgio De Luca e il nostro autore Fabio Cantadoni in regia, Daniele Bonamici in redazione. Polli o ranocchie, ma sinceramente a me ranocchia mette tenerezza, già è uno dei più bersagliati dalle critiche interiste. Secondo me rimane un buon giocatore, rimane un giocatore che se ha un compagno di reparto forte e solido può fare il suo, però ieri quando ha perso il passo come i cavalli che vediamo al trotto e si è accasciato comicamente su se stesso, si è incartato comicamente su se stesso, beh, a me ha messo una tenerezza infinita. Poi sul banco degli imputati ci finisce lui, perché così va il calcio. Mancini dice: Inter è una squadra di polli. Ieri l'Inter ha giocato una partita decorosa, dignitosa, per un obiettivo stagionale che era molto importante, più per l'Inter che non per il Napoli, che è in corsa per il terzo posto, c'è ancora, e magari per il secondo, perché il Napoli che sto vedendo in queste ultime uscite mi sembra una squadra molto più solida della Roma sfilacciata, di cui poi parleremo, che sbaglia gli acquisti, che è piena di infortuni, di dubbi, di incertezze e di tristezze. Ebbene, per l'Inter era una partita importante, è stata giocata in modo decoroso, era la classica partita da 0-0 di campionato, da tempi supplementari se preferite di Coppa. Poi se becchi gol su rimessa laterale, vabbè, dove vuoi andare? Nel calcio l'importante è vincere, come ricorda Mancini. Ma poi nel calcio bisogna vincere poi, sinceramente, poi alla fine conta quello, è vero che la squadra fa prestazioni buone, questo anche se poi a volte qualcuno non le vede, perché è chiaro che conta il risultato, ma cioè non si può perdere questa partita, ecco. Questa partita non si poteva perdere, perché è stata giocata. Rimane un buon debutto di Brozovic, che a me pare un buon giocatore, rimane un primo tempo in cui l'Inter ha giocato più o meno in 10, perché Puskas, il ragazzino, non si è visto. Mancini lo ha confermato poi nella ripresa, però forse è stato anche quello un azzardo in una partita, ripeto, così importante. Alla fine c'è stato anche uno sconsolato Hernanes, che possiamo ormai chiamare ex profeta, tifosi della Lazio, non so se siete d'accordo. Di delusione, di frustrazione, perché adesso basta, no? Prima della partita dicevamo questo, basta di fare queste figure, e la partita andava bene, la squadra ha giocato bene, ha tenuto molto bene, e alla fine prendendo un gol così è difficile da digerire, però guardiamo avanti e prepariamoci ancora meglio per la prossima partita. Grazie, ricevo un sacco di messaggi, 349-238-6666, oggi qualche problema di diffusione, ma nevica su tutto il paese. Pierluigi Pardo arriva dopo la mezz'ora, problemi di collegamenti e comunicazioni, ma noi andiamo avanti. 800-24-00-24, Danilo da Genova, ha giocato lei? Sì, io ho giocato e la ringrazio della convocazione, perché mi prende proprio nell'argomento, perché io giocavo stopper vecchia maniera. Sì. A che livello? Terza categoria. Perfetto. E il mio allenatore, le parlo degli anni Ottanta, io giocavo nel Bogliasco a Genova, a fianco avevo la Sampdoria che l'allenava Eugenio Bersellini. Indimenticato. Detto il sergente di il ferro. Il sergente di ferro. Mi diceva il mio allenatore: sei stopper, non superi il centrocampo, ma il tuo centravanti lo devi seguire, scusando il termine, fino a gabinetto. Fino al cesso. Dove va lui, vai te. Sì. Ecco, io sono arrabbiatissimo perché sono interista e il mio sangue non è rosso e nero azzurro. E quando ho visto ieri sera soffrire la squadra per 93 minuti e 30 secondi e poi prendere un gol a quella maniera lì, cioè sbagliare la marcatura, io dico questo: l'Inter ha un grosso problema, come ce l'ha anche il Milan, che persi, io guardi, me li sono scritti, Maicon, Burdisso, Cordoba, Samuel, Materazzi e Chivu, non ha avuto un ricambio vero. Sì. Di difensori, come è lo stesso problema che anche il Milan, avendo perso Nesta, Thiago Silva, Maldini. Esatto. Sì. Però poi gli ultimi tre nomi che ha fatto sono quelli che ti cambiano la vita, insieme a Samuel. Cioè, Samuel era un giocatore che in grado di cambiare la vita anche di Ranocchia, perché è uno di quelli, come Nesta, come Thiago Silva, vicino ai quali, cioè, per me i campioni sono quelli che migliorano il rendimento dei compagni, e sono quelli che Maldini, Thiago Silva, Nesta, Samuel, Materazzi, uno con grande carisma, ma forse non di quella categoria lì o di quel livello lì, però la verità è questa: il ricambio non c'è stato. Ora, Ranocchia in croce, Vidic in croce, nonostante un'eccellente carriera, resta il fatto che tu, giocatore professionista di Serie A, cioè prendere un gol, cioè vada per il Cagliari di Zeman, io ero rimasto basito da quel gol subito dal Cagliari su rimessa di Gulam, Giorgio De Luca, correggimi se sbaglio, da metà campo. Poi mi dice Giorgio De Luca che è uno schema che risale a Mazzarri, perché ci fu un gol del Napoli a Cesena su rimessa da metà campo di Campagnaro e gol di Lavezzi. Vabbè ragazzi, ma queste cose a livello professionistico, e non solo a livello professionistico, sui campi di calcio è raro vederle. Tutti convocati. Regulan è qua davanti a me, lui sa che abbiamo lavorato tutta questa settimana per il telefono quando lui era nella Coppa d'Africa, deve fare una rimessa laterale. Sì, Pipa lo sa che io faccio rimessa lunga e lui è sempre attento a questo movimento, però come io lo dico sempre, è più importante che abbiamo vinto e adesso siamo in semifinale. Allora io voglio chiedere un'interpretazione autentica e autorevole ai massimi livelli su quell'episodio. Beppe Bergoli, buongiorno, ciao zio, grazie. Ciao Carlo, ciao a tutti. Senti, ciao. Ma a te è mai capitato dalle giovanili, vabbè giovanili te non hai fatto, dalle 17 anni hai vinto un mondiale, vabbè lasciamo stare, diciamo di vedere su un qualunque campo un gol da rimessa laterale? No, così no, nel senso che è evidente che c'è un errore di Andrea per il suo amico, e quindi un po' mi dispiace, no? C'è un errore su una rimessa laterale battuta anche furbescamente, velocemente, con una rimessa lunga, però lì insomma un difensore assolutamente lì non deve andare, o vai in anticipo e sei sicuro, se no stai dietro, marchi l'uomo e non succede nulla, la partita è finita, ecco. Quello sicuramente un po' mi dispiace, ma bisogna fare un discorso generale sulla difesa dell'Inter, Carlo, non fermarci solamente su un episodio, perché stiamo vedendo che tutti i difensori centrali dell'Inter in questo momento stanno soffrendo e stanno facendo fatica, e lì bisogna chiedersi il perché fanno fatica. C'è una ragione secondo te? Sì, perché Mancini vuole giocare un calcio che in questo momento è molto propositivo. Io dico sempre, lui è abituato ormai, visto che arriva da esperienze di Manchester City, Galatasaray, insomma situazioni internazionali, e vuole proporre un calcio che sicuramente è buono, ma in questo momento forse non ha la squadra a disposizione per poter fare questo tipo di calcio. E lui, l'ho sentito parlare, io, i miei difensori centrali devono accettare l'uno contro uno, non siamo abituati nel nostro calcio, hai capito? Sì, e sì, allora sì. Vanno un po' in difficoltà tutti, perché una volta tocca Vinicius, una volta tocca Ranocchia, anche ieri Juan Jesus è stato ammonito, ha rischiato l'espulsione, cioè sono sempre soggetti a essere in difficoltà. Tu dici che la difesa è lasciata al vento? È perché per il modo che ha, che vuole imporre, non è protetta. Che vuole dare una mentalità, sai, nella costruzione, in uscita, tante volte si trovano anche scoperti in situazioni che generalmente non sono abituati. O diamo tempo, oppure io penso che anche i grandi difensori, forse i più grandi no, perché l'uno contro uno lo accettano, hanno velocità, forza fisica, grande attenzione, se no chiunque in questo momento può andare in difficoltà con questo sistema di gioco. Sì, a me è venuto voglia di difendere Ranocchia, che per me comunque resta, ho un sacco di messaggi contrari. In questo momento è messo in croce dalla tifoseria interista, però per me resta un buon giocatore, cioè accanto a uno che gli dà sicurezza con una difesa adeguatamente protetta, è un buon giocatore Ranocchia, non è quello che perde il passo comicamente su una rimessa laterale. Carlo, ieri non si può difendere, perché ti dico anche è mio amico, quindi però non è che sono... No, su quell'episodio no. Su quell'episodio no. Però nel contesto generale bisogna fare questo tipo di discorso. In questo momento i difensori centrali dell'Inter, chi ci metti, può andare in difficoltà. Magari la squadra cresce, impara gli automatismi, insomma, magari la valutiamo nel prossimo campionato, dopo aver fatto un'altra campagna acquisti di Mancini, allora la vediamo in maniera diversa. Oggi fare il difensore centrale dell'Inter è un brutto lavoro. Sì. Senti Beppe, ma a questo punto dove deve andare Mancini? Coppa Italia fuori, resta un'Europa League che è una strada nel bosco, no? Perché sappiamo bene quanto sia difficile vincerla, e quest'Inter non mi sembra una squadra in grado di vincere l'Europa League. Deve andare verso il futuro testando giocatori, moduli, idee eccetera, o verso la salvaguardia della faccia della squadra? Ma guarda, io anche ieri sera una cosa che non ho capito è che ha lasciato in panchina gente importante, questo doveva essere un obiettivo fondamentale, tu ti sei non so, Kovacic, Guarin, Podolski, Palacio, insomma si è preso un bel rischio sicuramente ieri sera, adesso deve sicuramente ritrovare compattezza, cercare di fare qualche risultato in campionato, perché giustamente poi i risultati positivi, anche la prestazione, poi ti danno fiducia, e l'Europa League è un traguardo difficile, però io ho vinto una Coppa UEFA e mi sono salvato all'ultima giornata, quindi nel calcio le cose cambiano da una manifestazione all'altra, può succedere qualsiasi cosa. Sì, tipo Borussia Dortmund ultimo in classifica, poi parliamo anche di questo, chiamati a rapporto. Bravo. Sotto la curva, secondo un'abitudine che evidentemente non è solo italiana, ieri chiamati a rapporto sotto la curva i giocatori del Borussia Dortmund. Beh, per un'ultima cosa invece, dall'altra parte ho visto un Napoli che a me sembra sempre più solido. Strinic non è un fenomeno, ma dà quadratura alla difesa. Gabbiadini lo sappiamo dal campionato, un ottimo acquisto. Mi sembra un Napoli con una faccia diversa. Dall'altra parte vedo una Roma che si sta sfilacciando tra errori di valutazione, di mercato, tristezze, polemiche, incomprensioni. Attenti al Napoli. Guarda, il Napoli, io sono sempre stato un estimatore di Rafa Benitez. Sì, anch'io. Non penso stia giocando un grande calcio, perché anche col Chievo ha sofferto molto. Ieri è stato umile, si è messo lì quando l'Inter faceva gioco, si è messo nella propria metà campo, ha rispettato l'avversario. Però mi sembra più compatta, e i due giocatori che hai nominato, Strinic soprattutto, è un giocatore che ti dà solidarietà, Sì. E ieri nell'uno contro uno contro Shaqiri, tu le vedevi, andava in velocità e ci arrivava prima lui, nel contrasto lo vinceva. È un giocatore importante per la linea difensiva. La Roma invece la sto seguendo, perché le ultime quattro partite l'ho commentata sempre io, è una squadra in difficoltà. Adesso qui trovare il motivo è difficile, ci sono tante, può essere quello fisico, quello mentale, le assenze, gli infortuni, perché gli infortuni sicuramente hanno condizionato un po' la stagione della Roma, vedi Castagne e Strootman su tutti, però è una squadra che ha problemi, perché nei primi tempi non riesce mai a tirare in porta, certo. E quindi vuol dire che qualcosa c'è. Pardo si dice spesso, tu lo sai, che soprattutto in momenti come questo Totti, non dico Totti non è un problema, perché sarebbe una sciocchezza dirlo, però diventa decisivo, determinante, forse anche in negativo, no? Molto condizionante. Carlo, eravamo il derby Lazio Roma-Lazio, fine primo tempo, tutta la tribuna stampa, sentivo i commenti, devi togliere Totti, e poi ti fa due gol, no? Certo. Quindi con Totti devi sempre stare molto attento, perché è un giocatore talmente universale, forte, che è difficile. L'unica cosa, io penso che l'anno scorso la gestione di questo giocatore sia stata differente e migliore, perché gli faceva fare più panchina, lo toglieva di più. E la squadra secondo me aveva reagito bene. Quest'anno invece sembra quasi intoccabile, che gioca sempre, ecco, forse viste anche le difficoltà che hanno gli altri, insomma tutti riconosciamo a Totti una grandezza unica, e quando finirà di giocare a calcio ci mancherà, certo, al nostro patrimonio calcistico. Però mi era piaciuta di più la gestione di Totti l'anno scorso rispetto a quest'anno. Beh, però permettimi di essere malizioso, nei momenti difficili l'allenatore furbo fa giocare quello che il pueblo vuole, lui gioca, voi tranquilli, lui gioca e poi vediamo. Ma può essere, perché questo sicuramente nei momenti di difficoltà ti aggrappi magari al tuo fuoriclasse, al tuo campione, quello che vuole anche la gente. Però adesso io, siccome l'ho vista tanto la Roma, gli mancano le accelerazioni di Gervini, poi in questo momento dove magari vai sotto, che hai bisogno di una prima punta, non ce l'hai neanche a disposizione, via destro, via Borriello, non hai più nessuno. Valutiamola fra un po' e capire se riprende, se recupera i propri giocatori, i nuovi acquisti da Dumbia, insomma tutti questi, capire se la Roma è lì che può lottare ancora per salvaguardare il proprio secondo posto. Grazie Beppe, grazie. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Beppe Bergomi, grazie a chi scrive. Quanto ci manchi zio con te in difesa, era un'altra cosa, vabbè. Scoperta dell'acqua calda, amico mio. 349-238-6666. Roberto Pisa, buongiorno. Buonasera dottor Genta, grazie per la convocazione. Giocata a pallone? Sì, io ho giocato una ventina di anni nel calcio dilettantistico, tra eccellenza, promozione, prima categoria. Peccato gol su rimessa laterale. Laterale no, ma ho preso un gol dal calcio di inizio dopo un secondo. Vabbè, anche questo è un bel record. Il gol più che non mi scorderò mai nella mia vita, perché ci stavamo sempre tirando sui calzettoni, il portiere che si sistemava, questo che batte un tocco e tiro in porta e in rete, a Signa, me lo ricorderò sempre, non me lo ricorderò mai più. E il portiere dormiva però, E il portiere più che tirasse sui calzettoni dormiva. Era un attimo distratto, diciamo, questo è un tiro fortissimo. Massimiliano Malvini, me lo ricordo sempre, allenatore adesso del tutto poi in Lega Pro. Sì. Quindi una cosa che non mi scorderò mai. Quindi non rimessa laterale, ma gol su calcio d'inizio, mica male. Tornando, anche se posso intervenire sul discorso dei Ranocchi, perché io ho fatto per 20 anni il centrale difensivo, e direi che ieri sera è veramente un gol da esordiente ha preso, perché al 93esimo non entri su un fallo laterale, su un campo che scivola, sulla palla che batte in terra, lì temporeggi, lo accompagni e fai fallo, ma al 93esimo non si entra mai. Io adesso sono allenatore dei bambini e la prima cosa che insegno è anche questa, la lettura delle situazioni, che è importantissima. Quello che ha detto Bergomi, cioè o entri in anticipo se sei sicuro, oppure accompagni, arretri e accompagni l'attaccante, cioè così non è ammissibile su un campo di bambini, forse, figuriamoci in una partita così importante, soprattutto per l'Inter. Quindi credo che l'errore tecnico sia chiaro e sia da riassumere in questi termini. C'è Ulisse che mi scrive che gli sono piaciuti Shaqiri, Santon e Brozovic. A me Shaqiri poco, Brozovic sì, Santon ha fatto il suo, è un giocatore, secondo me, un acquisto Ma questo funzionale per l'Inter, se si può dire così, in questo modo. Su Twitter postato, io vi leggo i messaggi di Giorgio De Luca, eseguo pedissequamente, postato un video di Raul che segna su rimessa laterale di Roberto Carlos a finale di Champions 2002 contro Leverkusen. Bravo. Massimiliano Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dalla bianca innevata Milano. Sì, sono qua anch'io, vedo. Io ho giocato a pallone a livello dilettantistico, prima categoria, promozione, e siccome riuscivo ad arrivare abbastanza in modo teso con la palla tra l'area piccola e il dischetto di rigore, avevamo un paio di schemi con un paio di blocchi, quindi questo per dire che è uno schema che si può preparare. Ma funzionava? E funzionava, c'era un bel sacramentone, come diceva il mio buon allenatore Brianzolo, di 1,95 m con un grande tempismo che la pigliava di testa. La prendeva e la metteva e spesso levava le castagne dal fuoco, non dico come Pirlo al 94esimo, ma insomma, quando ti trovi in difficoltà era uno degli schemi. Sì. Con il Napoli che sta pressando alto, l'Inter che esce, insomma, una rimessa veloce, Ranocchia che non si capiva dov'era, taglio in orizzontale clamoroso, inciampa sulla palla. Ha inciampato su se stesso, più che sulla palla. Cioè, proprio ha perso, a me ha ricordato, ripeto, i cavalli che perdono il passo, proprio inciampato su se stesso. Ripeto, in maniera poveretto comica, perché così è. Poi su rimessa laterale abbiamo ricordato, al di là di questo gol di Champions League, è chiaro ed evidente a tutti che abbiate giocato a pallone che non esiste, cioè ci devono essere delle colpe grosse, enormi da parte della difesa se becchi un gol su rimessa laterale, cosa improponibile. L'abbiamo visto, io pensavo fosse possibile solo con i Cagliari di Zeman, cosa che abbiamo visto in questa stagione, rimessa di Goulam in quell'occasione. C'è questo precedente della rimessa di Campagnaro per Lavezzi nel 2012 a Cesena, però vabbè, se non c'è una dormita colossale o uno svenimento come quello di ieri sera, diventa impossibile segnare una situazione di quel tipo. 800 24 00 24, borse, poi dovrebbe arrivare anche Pardo, e qui sta arrivando. Una squadra forte, questo lo sappiamo, sì, guardiamo i giocatori che avevano in panchina, Podolski, Guarín, Palacio. È una squadra che oggi poteva puntare all'scudetto facilmente perché hanno un allenatore d'esperienza, un giocatore di massimo livello. Per questo è ancora più importante fare la partita che abbiamo fatto, vincere la partita, e credo che per il calcio italiano è stata una partita spettacolare, perché è un stadio pieno, è il campo perfetto, due squadre che giocano calcio e di questo livello, mi sembra che sia stato un messaggio molto positivo. Convocati. Goulam per Higuain, la grande chance, e Higuain al 93esimo su un'ingenuità colossale dell'Inter castiga la squadra di Mancini. Higuain, il pipita, al 18esimo centro stagionale. Questa squadra ha fatto un lavoro grandissimo, siamo in un gran momento in forma. Dobbiamo sfruttare questo al massimo e dobbiamo continuare per questa strada. Credo che la squadra sta lavorando tantissimo e stiamo giocando ogni tre giorni, e la verità, grazie alle tifosi, ai compagni, per tutto questo lavoro. Gonzalo come attaccante è fortissimo, quando abbiamo deciso di prenderlo si sapeva. Lui sta dimostrando con la mentalità giusta che può fare la differenza. Tanti attaccanti ho avuto di massimo livello, per dire, Raul quando aveva 16 anni è fortissimo, ma credo che lui è uno degli attaccanti più forti al mondo, questo sicuro. Abbiamo migliorato, è vero, no? Questo ha dato fiducia a noi. L'importante era andare avanti, abbiamo lavorato tantissimo e la verità, grazie ai tifosi e a tutti per il lavoro di oggi. Questo è un programma di una interattività spaventosa, molti ascoltatori ci segnalano. Massimiliano Nerozzi, che ringrazio pubblicamente dalla stampa, segnala su Twitter, ci ricordo su Twitter 2010 mondiali Slovacchia Italia, gol del 3-1 di Weiss segnato direttamente su rimessa laterale, per insomma mi sembra che quell'Italia non fosse una grande squadra, e questo è un pallidissimo eufemismo. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Senti, tu che sei stato un portiere di un certo lignaggio, hai mai beccato, lo sei ancora, lo so, hai mai beccato un gol su rimessa laterale? No, no, no, mai? No, io mai, non ho proprio mai beccato un gol. Allora, non mai la partita ufficiale che ho giocato da portiere è stata alla partita del cuore, dove ho preso il palo 18 minuti, nessuno mi ha tirato in porta, ho salutato il pubblico e poi abbiamo festeggiato il pareggio a cena. Ma ti ricordi da invece da commentatore, da giornalista, al di là di questo di Slovacchia Italia con un'Italia improponibile, un gol su rimessa laterale? Vabbè, c'è, cioè, quello di quest'anno del Cagliari, l'ho già ricordato ieri sera. Poi te ne ricordi qualcun altro? Poi quello di ieri sera. Non ce n'è tanti, Pier. No, francamente no, ma è abbastanza raro, insomma, non è che adesso sinceramente forse sono impreparato, però in qualche modo è stato qualcosa di clamoroso, perché poi l'Inter fino a quel momento aveva giocato una partita di grande importanza, di grande concentrazione, era arrivata a pezzi dopo Sassuolo, e devo dire che ieri ha dato delle risposte caratteriali, sai, i giocatori al di là di tutto hanno dimostrato di essere uomini e di aver affrontato la partita col massimo dell'attenzione possibile contro una squadra che per me è più forte, quindi certo, questo è indiscutibile, però poi l'episodio può sempre capitare, e su quello che diceva Benitez a proposito di Higuain siamo tutti d'accordo. Vabbè, è chiaro che ci vuole un concorso di circostanze, no? Ranocchia che canna la rimessa, che fa quel che fa, e la palla finisce sul piede peggiore in assoluto per l'Inter da avere contro, cioè quello di uno dei più forti attaccanti del mondo. Riesce a fare una difesa d'ufficio di Ranocchia? Io ci ho provato. Che di questo momento, di questa stagione, in questo momento ci sono tanti spifferi, tanti venti, e per esempio a Sassuolo, a Reggio Emilia era stato il meno peggio secondo me del reparto difensivo, pure se giocava comunque non al meglio, ed è sbagliato. E quindi, per carità, insomma, la vita di un portiere, di un attaccante o di un difensore spesso si lega al singolo episodio, no? Al battito d'ali, al giro del vento, e si sbaglia. Poi chiaramente gli errori ci sono anche in altri ruoli, magari un mediano, un centrocampista, certo, però non sono meno evidenti, più possibilità di recuperare, un difensore rimane più strettamente, o un attaccante o un portiere rimane più strettamente legato a un istante in cui devi fare una cosa e non sempre ti riesce. E poi chiaramente nel lungo periodo segna la distanza fra i grandissimi e quelli che sono grandissimi. Mi viene in mente in questo momento, ripescato quella nella memoria, la faccia di Nesta a terra, quanto soffriva nei derby con Del Vecchio. Stiamo parlando forse del forse il miglior difensore che abbiamo avuto in Italia negli ultimi vent'anni, no? Quindi, poi ci sta anche l'eccezione che conferma la regola. Nel caso di Ranocchia non stiamo parlando del miglior difensore degli ultimi vent'anni, ma stiamo parlando comunque di un buon giocatore, certo, che secondo me tiene botta, e ieri sera ha fatto un errore. Certo, adesso vorrei provare a spostare il discorso sul Napoli. Abbiamo sentito prima Benitez, Higuain. È un Napoli che a me sta convincendo una partita dopo l'altra sempre di più. Alessandro, proprio da Napoli, buongiorno. Buongiorno gente, prima di tutto un saluto a lei e a Pardo, che è un grande, veramente un grande. Già? Chiamavo per segnalare due cose. Altro gol su fallo, diciamo gol su fallo laterale, finale Coppa Italia Napoli-Juventus, Campagnaro lancia la Vizzi e la Vizzi viene atterrato in area di rigore da Storari, e da lì nasce il primo gol. E poi una cosa simpatica, mi viene un po' da ridere a pensare che il Napoli di Benitez segna all'Inter un gol su uno schema di Mazzarri, cioè forse l'Inter dovrebbe fare un po' una scelta differente dei suoi allenatori, perché poi quando giocano col Napoli fanno gli stessi schemi, li segnano e vincono pure, per cui insomma forse... Cioè quello, lei si riferisce allo schema di Mazzarri, facevamo riferimento prima, Cesena 2012, rimessa di Campagnaro, gol di Lavezzi, però esatto. Schema su rimessa laterale deve esserci qualcuno che sbieno, che fa un errore colossale, e sia sempre lì. Però un bel Napoli, Pierluigi, un bel Napoli. Sì, ma il Napoli ha trovato una quadra, dovuta anche agli episodi, insomma, secondo me ha delle partite non brillantissime ma vincenti, e in una di queste partite, quella contro il Genoa, c'è stato anche l'errore arbitrale. Questo va detto, perché secondo me si veniva dalla settimana di Napoli-Juve, De Laurentiis e tutto il Napoli aveva protestato lungamente. la settimana dopo il Napoli contro il Genoa ha avuto è un fatto di onestà intellettuale, secondo me, va detto, però la crescita c'è. La crescita c'è, e lo stesso discorso riguarda anche Napoli-Udinese, erano state due partite, diciamo, fortunate dal punto di vista arbitrale. Però insomma il Napoli ha cominciato a vincere tutta una serie di partite con un gol di scarto, e questo sì, è importante. Questo è importante perché vuol dire che evidentemente che c'è una maggiore abitudine alla tensione, al duello ravvicinato contro l'altra squadra. Quindi secondo me dal punto di vista della concentrazione il Napoli sta crescendo. Poi l'Inter ha colpito un palo, insomma, tutte le cose che si possono dire sulla partita secca, no? Sul giro del vento, come dicevamo prima, sul pallone che passa di qua o di là di qualche centimetro, devono essere dette anche questa volta. Però poi, siccome adesso sono 4-5 partite che il Napoli riesce comunque a portare a casa un risultato positivo, cominciamo a intravedere un segnale da questo punto di vista. Sì. E poi guardiamo al mercato, il mercato è stato molto funzionale, Pier, perché abbiamo parlato un sacco di Gabbiadini, però a me Strinic, cioè, sembra il classico soldato che ti mette a posto tutta la batteria. È uno che non sbaglia mai. Bravo, secondo me fai bene. Chi era quell'altro all'inizio della stagione che non avevo preso? Era Babacar o Bernardeschi, mi pare. Bernardeschi non l'ho preso. Non posso dire quant'è l'offerta, perché sennò il mio amico te la brucia all'ascolto e fregarmi. Però insomma, diamo le buste. C'è Daniele da Venezia che scrive: al Subbuteo facevo spesso gol su rimessa. Grazie. C'era l'omino con la molla. Anch'io, Daniele, fai il bravo. Maurizio Cesena, buongiorno. Poi dovrebbe arrivare Roberto Renga, così incrociamo la strada del Napoli. Se arriva dopo il traffico, incrociamo la strada del Napoli con quella della Roma, la incrociamo, perché il Napoli, come battaglia navale, vede la Roma, cioè prova a colpirle, ad affondarla. Non è detto che non ci riesca. Maurizio, buongiorno. Buongiorno e complimenti innanzitutto. Due cose veloci. Allora, non esiste schema su fallo laterale. A Cesena io c'ero, è stata un'immensa cavolata della difesa. L'unico schema è la rimessa bassa quando diventa un cross, e quindi è un cross. Ma io volevo chiedere un'altra cosa. Totti della Roma, permetto che io sono juventino e ho subito, non dico l'umiliazione perché non è giusto, non è un'umiliazione, però vedere Del Piero, che l'ho visto nascere giocatore quando avevo 24 anni e lui era più piccolo di me fin tutta la carriera, è un po' mi ha dato sul naso, però la politica della Juve è stata ben chiara. Del Piero non poteva più giocare 90 minuti, ha fatto una scelta dalla direzione, dalla dirigenza, e si sono accomodati. Io ho paura che Totti ormai diventi un peso per questa Roma, per quello che avete detto voi, e poi non può essere che un allenatore si nasconda dietro il capo popolo che è Totti, con tutto il bene che gli voglio perché è un campione, anche se gioca nella Roma, io sono della Juve, per me però ormai comincia a essere più danno che beneficio. Allora ne parliamo, più danno che beneficio no, però ieri, prima parlando con, non ieri ma prima, pochi minuti fa, parlando con lo zio Bergomi, sono stato forse anche troppo malizioso dicendo che nessun allenatore è fesso, o quasi nessun allenatore è fesso, e nei momenti di difficoltà può essere che tu dica: ok, faccio giocare il capopopolo così mi paro le terga, e poi Non se le sta parando le terghe. Il punto secondo me è più un punto sano e onesto di valutazione, cioè Totti è una leggenda. Totti è una leggenda ed è un giocatore ancora clamorosamente, è un giocatore longevo, è un giocatore ancora in condizione, nessuno può discutere questo, e questa cosa qui forse può aver portato fuori certi momenti fuori strada i dirigenti della Roma per andare a cercare più un esterno che un attaccante centrale. Sì. Adesso ma in assoluta buona fede, secondo me, senza nessuna malizia da parte di Totti. Cioè, io un po' lo conosco, penso che lui sia uno che si taglierebbe un dito per vincere un altro scudetto. Sì, ma questo nessuno lo mette. Questo nessuno lo mette in discussione. Non credo che ci sia assolutamente malizia. E al tempo stesso credo che Totti sia ancora un grandissimo giocatore, certo, che comunque 20 giorni fa stavamo qui a celebrare i due gol nel Derby, ma questo è ovvio. Senti, facciamo così, mandiamo il traffico, poi chiamiamo Roberto Renga. Dai, che qua la bottaglia, ciao. Dai, ciao. Ho detto, so che tu hai fatto la tua domanda e l'hai girato molto bene, ma ho detto che parliamo a aprile perché abbiamo ancora tempo e dobbiamo concentrarci in quello che possiamo fare, che vincere la prossima partita. Tutti convocati. Non cassiamo, cancelliamo quella parola scudetto, non ce ne dobbiamo né vergognare né aver paura. Lo scudetto, se non ci sarà quest'anno, ci sarà l'anno prossimo, perché questo è un obiettivo della Roma e questo è un obiettivo della società. Oggi ho 4 punti di distacco dal Napoli e 7 da Juventus. La priorità è difendere il secondo posto, ma io difendendo il secondo posto devo vincere le partite, e magari quelle partite che vincono mi servono per riavvicinare il primo posto. Questo Sabatini, che ieri è andata in conferenza stampa plenaria a parlare in prima persona, Urbi e Torbi, in prima persona, come avete sentito, quasi fosse lui in questo momento la faccia della Roma, forse il principale imputato. Roberto Renga, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Diciamo che Sabatini è anche l'unico a Trigoria e dintorni che sappia di calcio. Ah. Perché poi dopo c'è un presidente a Boston esperto di basket, sì. C'è Italo Zanzi che è esperto di pallamano, poi c'è un direttore generale che come massima esperienza ha giocato nella squadra degli avvocati. Alla fine il direttore sportivo deve metterci per forza la faccia, perché lui sa effettivamente di calcio. Pardon, perché... signor Renga, la tocca piano, eh? No, la tocca piano, è vero, però è anche vero secondo me che il direttore sportivo in questione ha diciamo autonomie e poteri da direttore generale, forse anche qualcosa in più. Insomma, lui stesso ha dichiarato che a parte l'arrivo di Gervinho, che è stato fortemente voluto Garcia, poi le scelte le ha fatte lui, e sono state scelte spesso geniali, perché poi Marquinhos non ce lo dimentichiamo, sì. Insomma, la Roma no, ma numero uno, un califfo assoluto, e resta il fatto che a sto giro non l'ho capito qui, a questo giro non l'ho capito io. Ieri, devo dire, secondo me lui è stato costretto a dire determinate cose. Io non lo sto difendendo perché è perugino come me, Però voglio dire che comunque, se non altro, ci ha messo la faccia. Ha difeso Garcia, che in questo momento a Roma è profondamente sotto scopa. E tra l'altro a Roma si dice anche che ci siano dei dissidi tattici e tecnici tra Sabatini e Garcia. Garcia vuole dei giocatori già pronti per l'uso, mentre invece Sabatini vorrebbe dei giovani poi da lanciare, no, per fare delle plusvalenze. E poi i giovani che compra, e in realtà Garcia non glieli utilizza. Quindi difendendolo ha fatto sapere a tutti: vedete, io lo difendo, siamo amici. Dopodiché però non ha difeso Garcia sulla preparazione, perché comunque l'allenatore è il responsabile anche dei preparatori. E soprattutto ha dato addosso ai giocatori dopo il Bayern, ha detto: qui c'è qualcosa che non va, i giocatori non sono più quelli di prima, non sono più motivati come l'anno scorso, non fanno più gruppo come l'anno scorso. E ha detto delle cose, le ha dette. Sì, certo, l'anno scorso i giocatori all'errore si aiutavano, quest'anno all'errore vengono lasciati da soli. Pierluigi, allora, i giocatori sicuramente non sono più quelli di prima, ci sta come ragionamento. Io penso che in generale questa squadra quest'anno abbia visto, noi eravamo partiti dall'idea che questa squadra fosse migliorata almeno dal punto di vista quantitativo della rosa, no? Fosse pronta per le tre competizioni. Poi sicuramente le difficoltà in Champions hanno creato una difficoltà anche psicologica nel resto della stagione. Negli 11 questa squadra è inferiore all'anno scorso, sono successe delle cose sicuramente gravi per certi versi, anche addirittura impronosticabili, penso a Castan. Certamente, quindi, sì. Io però questo mercato non l'ho capito, lo dico sinceramente, pur partendo dal presupposto che Sabatini è uno straordinario conoscitore di calcio, e che la Roma un anno e mezzo fa è ripartita veramente dalle ceneri grazie a lui, grazie a Garcia, e ha fatto un calcio altissimo, e comunque sì, ha fatto plusvalenze straordinarie in questi anni, perché poi il vero paradosso anche con Luis Enrique, che fu una gestione, Luis Enrique, fu una gestione sicuramente non brillante dal punto di vista del risultato sportivo. Il vero paradosso di quella stagione è che in quella stagione lì la Roma riuscì comunque a fare delle clamorose plusvalenze, cioè riuscì comunque a tirar fuori Marquinhos, Lamela, i giocatori, certo. Quello fu un grande paradosso. Poi l'anno scorso ha cominciato a fare cose eccezionali. Mi sembra che quest'anno, al momento di quagliare, al momento di fare il definitivo salto di qualità, questa squadra non si sia ritrovata, e ho la sensazione che questo mercato non abbia risolto i problemi. Roberto, che ne pensi? Ma penso intanto che Marquinhos e Lamela hanno sfruttato Zeman la parte iniziale della stagione, no? Quando c'era Zeman che lo utilizzava benissimo. Marquinhos, essendo un anarchico, per Zeman andava molto bene, e Lamela imparò piano piano a tagliare. E da qui, no, anche questa plusvalenza, questa esagerata valutazione. Dico che Sabatini, come tutti al mondo, come tutti quelli che lavorano, alcune le azzecca, come Marquinhos, Lamela e tanti altri, e qualcuno ne sbaglia. E quest'anno non c'è dubbio che il mercato sia stato sbagliato, perché io, almeno personalmente, a giugno qui a Roma si diceva soprattutto che ci fosse bisogno magari di un portiere, magari di un terzino destro, visto che Maicon era l'anno dopo i mondiali e che quindi probabilmente aveva dato tutto, sicuramente di un sostituto all'altezza di Manolas, ovviamente non sapevamo di Castan, sì. Che ci volesse un grande terzino sinistro, ma soprattutto un grandissimo centravanti, perché Totti non fa il centravanti, come sappiamo bene, fa il centrocampista e qualche volta il trequartista. Il centravanti l'ha fatto solo nel secondo tempo nel derby, sì. Io sinceramente dicevo già a giugno, spenderei il gruzzoletto che la Roma può permettersi, adesso chiederà il prezzo, va bene, ma insomma comunque dà la sensazione di poterselo permettere, per un grande centravanti. Non c'è bisogno che ricordi Higuain, no certo, però Mandžukić come sostiene da tempo milioni. Pardo sì no ma questa era l'idea corretta, fa un disco rotto, però quando quest'estate ho visto i Turbe 22 milioni più commissioni, insomma ci ho pensato, perché i Turbe ha fatto cose interessanti a Verona. Adesso il rischio vero è quello di considerarlo improvvisamente negli umori, il capro espiatorio, certo. No, ma sai che c'è, che Roberto conosce Roma anche meglio di me, ma insomma la conosciamo abbastanza bene, è una città eccezionale negli slanci, nella passione, nell'amore, ma è anche una città dalle fortissime depressioni, quindi certo. In questo momento cioè, quando ieri Sabatini dice beh, ma i Turbe costano 22 milioni più commissioni, insomma sì, forse toglie qualcosa rispetto alla valutazione che la gente sapeva, ma rimane una votazione altissima certo, per un giocatore che sta rendendo fino a un certo punto. Ragazzi, vi saluto, buon pomeriggio e buon lavoro. Ciao Roberto Renga, Pier, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Così è finita così. Ciao Gier. Sono sempre migliore che se ne vanno. Non io, tu per me. Ci vediamo domani. Ciao. Convocati. L'allarme scatta immediatamente e proprio perché lui non ha il senso dell'orientamento. Le ricerche ci sono, però non danno esito. Beh, devo ammettere che certe volte mi sento un po' Federica Sciarelli, senza offesa alcuna per alcuno, però. Il calcio di questi tempi ci offre tanti spunti da chi l'ha visto. Innanzitutto Osvaldo non è pervenuto, cioè nessuno sa bene dove sia, si sono interrotti anche i collegamenti via Twitter, mi confermate ragazzi? Nessun tweet dal mago Osvaldo, niente. Però c'è un altro caso. Beppe Sculli, conosciamo tutti, no? Io sinceramente pensavo avesse smesso. No. Gioca nella Lazio, giocatore della Lazio, stipendio 1,1 milioni di euro, scadenza del contratto giugno 2015. È un problema, scopriamo che non gioca, vabbè, questo ce ne eravamo grosso modo accorti tutti, però non si allena da diversi mesi, anzi in questa stagione, leggo sul sito di Sport Mediaset, non si è ancora presentato una volta a Formello, centro sportivo della Lazio. In compenso ogni mese si presenta in banca a riscuotere il ci può stare conto, poi va bene. Fanno un mazzo così a Ederson perché ha spento il telefono, becca 1,5. Questi sono problemi di notito, però almeno Ederson a Formello ci va. Beppe Sculli, dove sei? 800240024, numero verde. Finiamo questo momento da chi l'ha visto e torniamo agli ascoltatori prima di andare da un mio caro amico motorista. Roberto, provincia di Ascoli, buongiorno. Buongiorno, sono Roberto, grazie per avermi convocato. Se, le segnalo una cosa, che stiamo raccattando come mosche, come gronchi rosa i gol su rimessa laterale. Ce n'è uno meraviglioso, forse il più bello di tutti, segnato da Whelan, Irlanda. direttamente su rimessa laterale contro l'Unione Sovietica, perché allora era così, europei del 1988, quelli vinti dall'Olanda, gol di Van Basten, quello che ricordate tutti. Però andatevela a vedere, forse abbiamo anche twittato. Dica Roberto. Ecco, io volevo parlare un pochino delle problematiche della Roma. E secondo me, ecco, da tifoso juventino, sono nate un pochino dopo la sconfitta con la Juventus. E purtroppo, ecco, la società Roma e tutti i tifosi, anche i giocatori, commettono sempre lo stesso errore. Ogni volta danno sempre la colpa alla Juventus. Lo stesso discorso l'hanno fatto lo scorso anno quando hanno affrontato la Juventus e Totti si permise di dire che, preso singolarmente, ogni singolo giocatore era più forte quello della Roma che non la Juventus, e poi hanno preso 4 gol. Successivamente in partita di ritorno hanno perso 1-0 a Roma, e con tutto ciò diciamo che anche quest'anno, dopo la sconfitta con la Juventus, hanno dato tutti quanti la colpa alla società, ai giocatori. È cosa che sinceramente, secondo il mio punto di vista, non è così. E continuo a dire sempre che avrebbero vinto lo scudetto, avrebbero vinto lo scudetto. Beh, a questo, Roberto, a questo punto direi che anche il paravento di tante chiacchiere crolla, no? Davanti ai problemi oggettivi della Roma, che sono stati in parte spiegati a Sabatini ieri, sono problemi di campo, forse di spogliatoio, di squadra. E attenzione, perché la Roma, partita con grandi ambizioni, giustamente, legittimamente, barcamenata sì in mezzo ad un mare di sfighe oggettive, a questo punto rischia il clamoroso flop, perché il campionato, l'ho detto prima, il Napoli ce l'ha nel mirino come battaglia navale. 4 punti sono niente, soprattutto considerando le due differenti velocità. È vero, siamo a gennaio, c'è 1 miliardo di punti a disposizione, tutto è possibile, bla bla bla, tutte le chiacchiere che vogliamo. Però in questo momento, secondo me, la seconda squadra più forte del campionato non è più la Roma. L'Europa League rimane lì da provare a prendere, la Coppa Italia non c'è più, lo scudetto secondo me nemmeno, diciamoci la verità, perché o la Juve si suicida, o cosa che non credo, oppure la Roma, insomma, come fa ad andarla a prendere? Raffaele Caserta, buongiorno. Salve. Dica. La gente si emoziona vedendo il Papa, io mi emoziono parlando con voi, perché siete veramente dei competenti di calcio. E io che adoro il calcio da piccolino, per me è un'emozione parlare con voi. Volevo fare una mezza critica. Volevo fare una mezza critica e sentire un vostro parere. Mancini è un grande allenatore, un grandissimo, e soprattutto un grandissimo uomo. Per far sì che continua ad essere tale, deve andare da Toir e deve dare le dimissioni. Le spiego perché. Perché un allenatore così competente, che in campionato non ha più niente da dire, ma semplicemente perché sotto ci sono Cesena, Chievo, altrimenti c'era qualcosa di dire che riusciva alla Serie B, l'Inter. La competizione in UEFA League penso che non la possiamo proprio calcolare, perché non la potrà mai vincere. L'unica possibilità era di vincere la Coppa Italia. Sì, o c'è eventualmente un'Europa League molto più lontana, complessa e difficile. Ma dato che lei si emoziona, condividiamo questo intreccio di emozioni. Guardi, le faccio rispondere da Leo Turrini. Più di così non è possibile. Ciao Leo. Dove andiamo? Tutto bene? Emozionati, sì. Abbastanza. Volevo dire al signore che ha appena telefonato che sul Piero Cormano sta nevicando, si scivola. E c'è Mancini? No. Era Ranocchia, che già ieri sera a Napoli avete visto che c'era un po' di neve. Ma poverino, però la partita, e quindi è andato sbandando. E questo ha determinato il risultato. Però un'altra notizia da dare subito, è ripartita la multipla metano dell'avvocato Montezemolo in zona Rio Veggio, il traffico si sta sbloccando. Nonostante le ale catene, almeno a bordo. Caro Genta, altro che se ale catene, ti volevo segnalare una cosa, che all'estero tutti pensano che il presidente del comitato per Olimpiade Roma 2024, che si chiama Montezemolo, sia il figlio del Montezemolo che fu presidente d'Italia 90. Ora invece dobbiamo precisare, grazie a Barisoni e Focus Economia, che è la stessa persona. Non ci credo, mi spiace. È la stessa persona, sono passati all'incirca 30-40 anni, però questa è l'Italia della rottamazione. Quindi tutto bene, tutti pronti. Come andiamo lì? Te l'ho fatto, comandiamo. Andiamo così, senti un po'. Vai di fanfara, Leo Turrini. Sento. La fanfara, eh? Sì, la Ferrari che sta volando. Però, Niki Lauda dice: adesso i rivali sono loro, caro Genta. Sono qui. Manteniamo la calma. No, ma perché? Voglio fare sbracchiamo, sbracchiamo voglio pure. Fare un discorso, se mi concedi, all'altezza della tua trasmissione straordinaria, che è un gioiello, devo dire, della storia della radiofonia italiana. Cioè, dopo Lucio Filogamo ci sei tu, hai capito? Cari amici vicini e lontani, adesso c'è gente. Ecco, questo qua detto, no? Però noi dobbiamo avere anche il senso della realtà. Allora, nei 9 anni di Giorgio Napolitano al Quirinale, la Ferrari ha vinto solo un mondiale, ovviamente con Kimi Raikkonen da voi tanto deprezzato. No, non mettermici dentro, perché tu non sai che non è vero. Non sai che non è vero, che è un mio idolo. Io non so se la Ferrari di Sergio Mattarella tornerà all'epopea della Ferrari di Carlo Azeglio Ciampi, che in 7 anni da presidente ha dovuto mandare 5 telegrammi di felicitazioni per altrettante vittorie iridate, no? Di Schumi. Diciamo che la cosa positiva che si è intravista in questi primi test è che la nuova rossa, quantomeno, sembra essere nata bene. Da qui a immaginare che possa già collocarsi al livello della Mercedes, io ne dubito. Secondo me, guarda, la Mercedes ha ancora un secondo al giro di vantaggio. Addirittura? Beh, addirittura, pochi mesi fa ne aveva 2,5. Sarebbe già, hai capito? Come dice Tsipras, no, questa è la Ferrari di Tsipras. Dobbiamo rinegoziare il debito pubblico, cioè tagliarlo. Sì, però, allora, il debito pubblico però, Ferrari, scusami, nei confronti della Mercedes, sì, era arrivato ai livelli, come direbbe Barisoni a Focus Economia, no? Non restituibile. Non restituibile, no, certo. Se l'abbiamo dimezzato in pista. Però scusami, qualche margine. Però scusami, no, abbi pazienza, cioè adesso siamo al 5 di febbraio, è come se fosse calcio d'agosto, no? Esatto, quindi ad agosto lo scudetto, ad agosto lo scudetto lo vincono tutti. Dopo quello che ti ho detto, la stagione delle catastrofi, almeno, cioè, una boccata di aria fredda, innevata, finché vuoi, però sulla base di questi test, almeno, ok, la Mercedes sarà là davanti, non ha schiacciato l'acceleratore, hanno detto ma i tempi che ci frega, eccetera, eccetera, però hai messo dietro, almeno in questo momento, le altre contendenti. Ma tu hai ragione, allora, no, guarda, bisogna distinguere. Ah, sì, scudetto d'agosto, sotto l'ombrellone, caro, l'ombrello. Caro Lucio Filogamo, di vivo, cari amici vicini al parco. Allora, hai detto una cosa giustissima, a livello soprattutto emotivo, no? Il ritrovare una Ferrari, prima con Vettel e poi con il testimonial della vodka Raikkonen, da davanti, no? Indiscutibilmente fa coraggio, è un bel segnale. Quindi non è che poi un giorno Raikkonen un giorno ci manda l'avvocato da Rappero Cormano, no, eh? Allora adesso, se parliamo dell'avvocato Montezemolo, lui è verso no, Rio Vecchio. No, l'avvocato suo, cioè il legale. No, l'avvocato di chi? Di Raikkonen? Sì. No. No, ma Raikkonen adesso sta viaggiando, eh. Ah, vabbè, il okay. Ducato che gli è stato messo a disposizione da Marchionne, anzi è un Fiorino, modello Fiorino, vecchio gruppo Fiat, no? Sì, ricordo bene. Improvvisamente funziona, è noto anche come SF15T. Sì. E sta facendo, ti stavo dicendo, delle cose discrete. Allora, indubbiamente la tua osservazione è sacrosanta, a livello psicologico queste sono belle notizie, sapere che la Ferrari è lì, che si tiene dietro la Williams. Io dico solo, per amore di onestà, ecco, prudenza, perché erano i primi 4 giorni, si girava il resto della frontiera che non è un circuito del mondiale, quindi mancano dei parametri. Ad esempio, la prossima sessione, tra una decina di giorni, quando forse Montezemolo sarà riuscito a superare Pian del Voglio con quella multipla metano che gli ha messo a disposizione Marchionne come auto aziendale, ecco, la prossima sessione di test, dicevo, è a Barcellona. Barcellona è invece un tracciato storico del mondiale, e di solito quando una macchina riesce a girare su buoni livelli, su quella pista vuol dire che può fare delle cose quantomeno decorose nella stagione ridata. Però godiamoci il momento, questo hai ragione, insomma, hai capito? No, ma anche perché poi vedi che insomma la Red Bull col vestito nuovo molto alla moda, camouflage, non so se sia ancora di moda, sia passato. Alonsino con la McLaren che non va neanche, non si accende neanche. Allora, diciamo due cose: la Red Bull in questo momento va in pista in versione scaldabagno IKEA, no? Ha anche dei colori assolutamente improponibili. Non ti piace? Secondo me il salto nel mondo della moda non ti piace. Stanno nascondendo qualcosa. Per quanto riguarda la McLaren Honda su Honda, eccetera, qui siamo in presenza al momento, no, di un piccolo dramma umano. Voglio dire, Alonso ha lasciato la Ferrari dicendo basta, qui non se ne può più, insomma, no, non si cava un raio dal buco, scommetto sul ritorno dei giapponesi. Al momento la power unit, che lo dico per Barisoni, sarebbe un turbo supportato dagli ibridi, confezionata a Tokyo e installata sulla McLaren, non si accende neanche, altro che lo scaldabagno IKEA della Red Bull. Sì. Quindi Alonso cosa ha fatto? È andato a sciare per protesta, no? Non so se l'hai letto. Sì, è andato a sciare, forse poteva fermarsi sulla Pero Cormano in coda, fare un po' di sci di fondo. Però detto questo, attenzione, perché Alonso in realtà è andato in McLaren aspettando che Hamilton rompesse con la Mercedes per sistemarsi con i tedeschi dal 2016. Che cosa ti ha fatto invece il nero? Ne vogliamo parlare? Invece di separarsi dalla Mercedes, si è separato dalla cantante. Nicoletta Lindner. Visto. Sì, però ogni tanto si scazzano, poi tornano insieme. Sì, sono ragazzi. Tutto congiura contro l'iberico, l'ispanico, come veniva chiamato nel gladiatore, hai capito? Hamilton non lascia la Mercedes, ma lascia la cantante. E anche questo è un altro argomento sul quale dovremmo approfondire, caro Genta, tu che hai raccolto il testimone di Nunzio Filologo, ma tu ricordi un po' anche Corrado, la corrida, la Corrado, ti ringrazio. La raggio, veramente. Senti, è una cosa unica ormai nel panorama delle onde erziane. Sì. Ti saluto con questo messaggio di Francesco. Kimi sarà anche fermo sulla Pero Cormano a causa della neve, avrà pure le catene, ma le sa montare? È questo il domandone. Raikkonen le sa montare? Allora bisogna tenere presente una cosa, che Raikkonen, come sapete, avrà un ruolo nel prossimo capitolo di Guerre Stellari, no? Il risveglio della forza, dove lui farà la parte di Yodka. Sì. Che è praticamente Yoda alla vodka, no? Sì. Che è un po' così, questa dimensione da guru dell'ultimo campione del mondo nella storia della Ferrari, come io vi dico sempre: volete che non sappia montare le catene? Uno che appartiene al fantastico quartetto di esseri umani che possono proclamare su miliardi di bipedi di aver vinto il mondiale con la Ferrari negli ultimi 40 anni? Abbi pazienza, le sa montare altro che. Ma le sa montare altro che il nostro Yodka. Che la forza sia con voi, amici di Ciao Tricura. Leo. Ciao, che piacere. Ciao Leo Turrini. Allora, sì, io eseguo gli ordini di Giorgio De Luca, naturalmente volevo parlare d'altro, volevo parlare con Domenico da Palermo, ma mando certamente le due voci sul MotoGP, di cui peraltro abbiamo parlato anche ieri con Graziano Rossi. Ci sono, dopo questi primi test, che sono andati molto bene, punto e basta, per Lorenzo e Valentino Rossi. Allora li sentiamo tutti e due, a cominciare da Valentino Rossi e poi Jorge Lorenzo, sui primi test e sul valore di questa nuova Yamaha, che sembra davvero non lontanissima dalla onda del mostro Marc Marquez. Una prima giornata molto positiva, soprattutto perché la moto va molto bene e siamo stati veloci. Alla fine Marquez mi ha battuto solo di un decimo, ma comunque i tempi sono buoni, anche il passo non è male. Stiamo lavorando soprattutto per cercare di essere più veloci con le gomme finite, e diciamo nell'ultima parte della gara, dove è quello che ci è un po' mancato l'anno scorso, però la nuova moto funziona bene e come primo giorno sono molto contento. E la moto, in comparazione con l'anno scorso, abbiamo una gran base, pneumatici più morbidi, questo va molto meglio. La moto ha migliorato molto, nel primo pezzo con il gas, è più facile da guidare. Dopo sicuramente dobbiamo ancora migliorare la staccata. La staccata non l'abbiamo migliorato molto l'anno scorso e l'anno scorso abbiamo problema. Se non l'abbiamo migliorato vuol dire che ancora dobbiamo migliorare con rispetto alla Honda. Però la verità è che la moto è facile da guidare e i tempi sono buoni. Buongiorno Domenico da Palermo. Ciao. Chiamo da Palermo, è veramente brutto il tempo qui. Sì, è proprio cambiato completamente tutto. Ti faccio la radiocronaca, guardo fuori dalla finestra e faccio la radiocronaca. In questo momento 15, 26, 33 secondi su Milano nevicata, non fortissima, neve abbastanza bagnata. Per fortuna non rimane sulle strade, però il senso è quello. Qui se avessimo un 7-8 gradi meno sicuramente scenderebbe la neve, perché è proprio pieno, il cielo pieno, una cosa terribile, e stiamo vivendo un inverno terribile. Abbiamo vissuto la notte di Natale tutta la città tutta con la neve, è una cosa unica, non si vedeva tanto, quindi adesso siamo più vicini. Niente, no, io semplicemente seguo la Roma da tantissimi anni, sono un siciliano proprio ormai affezionatissimo alla Roma come squadra, e volevo semplicemente puntualizzare un particolare a proposito di quello che aveva detto quel radioascoltatore a proposito del... il problema è questo. Io non capisco che da quando praticamente c'è stata quella famosa partita con la Juventus, ecco, la Roma a partire da quella partita ha perso quell'autostima nei propri mezzi, le proprie capacità che è finita, non si è visto ma più quella. C'è stato quel Domenico, c'è stato quell'incrocio, poi non è facilissimo capire, cioè il momento è stato quello in cui si è davvero spaccato qualcosa che poi non si è più riusciti ad aggiustare fino a questo momento. Non so se far risalire quella frattura, quella spaccatura, quella crepa, non so se farla risalire, perché poi insomma è lo stesso momento, la partita con la Juventus a quel 7-1 contro il Bayern di Monaco, perché tutti a dire ma no, ma è un episodio, ma col Bayern Monaco figuratevi, può succedere eccetera, ma io dovessi dirne una, individuerei quello come momento in cui alla Roma qualcosa di importante ha smesso di funzionare. Come abbiamo detto prima in un'analisi molto lucida, Sabatini ha detto la differenza grande, vabbè, perché siamo giù fisicamente, lo vedono tutti, il preparatore atletico però non si tocca. L'anno scorso i giocatori si aiutavano l'un l'altro a superare eventuali errori, quest'anno sono soli di fronte all'errore, che sia quella la spiegazione un po' filosofica, un po' no, nel momento della Roma. Anzi, torniamo a parlarne, chiedo scusa a Giorgio da Pescara, ma devo chiudere per lasciare la palla al nostro nuovo grande acquisto Enrico Ruggeri, subito in onda subito dopo la borsa. Noi ci sentiamo domani, grazie a Fabio Cantadori in regia, Giorgio De Luca autore del nostro programma, Daniele Bonamici in redazione, ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco, folla ai cancelli e spalti gremiti per un gioco antico con moderni miti, tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba e di squilli, e si intravede lontano il sottopassaggio, il divin codino, il divino baggio.